È un accordo che prende un po' di tempo, speriamo che regga sia adesso in occasione del voto, che comunque ci deve ancora essere, sia poi in quelli che potrebbero essere i ricorsi delle aziende, alcune quali hanno già ottenuto delle concessioni, dei permessi che sarebbero sospesi. E però il punto è che se vogliamo veramente uscire dall'incubo di queste trivellazioni e in generale dall'incubo delle fonti fossili, bisogna fare qualcosa in più, bisognerebbe decidere una volta per tutte che gli airgun non si devono usare più, che gli idrocarburi fossili che non abbiamo ancora trovato devono rimanere dove sono, sottoterra, perché abbiamo un'emergenza clima che è notevole, oltre a tutti i rischi che corrono i nostri mari. La mediazione trovata non potrebbe essere un modo per conciliare interessi economici da un lato e salvaguardia ambientale dall'altro? Il problema è che una mediazione, che ripeto, prima deve reggere alla prova, diciamo, eventuali ricorsi che sono in sede di TAR o altro, e secondo deve poter portare da qualche parte. Cioè, questa idea di fare il piano delle aree, se viene fatto come sono state fatte altre normative nazionali, insomma, questa cosa non ci lascia affatto tranquilli. Dico solo per fare un esempio, in Italia vari ministri, varie fonti hanno millantato che si fa la migliore valutazione di impatto ambientale di questa attività, quando invece non si valutano in maniera assoluta i rischi di quello che si chiama un incidente rilevante, cioè un disastro petrolifero tipo la Deepwater Horizon. I cittadini italiani sono provati a credere che si facciano valutazioni di questo tipo, invece non c'è niente di tutto questo in nessuno dei procedimenti finora autorizzati. Infatti, oltre alle trivellazioni in sé, un tema molto dibattuto è stato quello dei metodi di ricerca di nuovi giacimenti, in particolare, come detto prima, in riferimento al metodo airgun, che secondo l'ISPRA sarebbe molto dannoso per l'ecosistema marino. Ci potresti spiegare un po' meglio le ragioni del dibattito e se ci sono stati aggiornamenti anche da questo punto di vista? Il discorso è che si è sempre detto che queste esplosioni fatte con aria compressa, ma sempre di esplosioni si tratta e di rumori assordanti, più di un jet in decollo per intenderci, sarebbero state localizzate finché qualche anno fa un gruppo di ricercatori che aveva dei microfoni messi in acqua che cercava cetacei ha sentito queste esplosioni a qualche migliaio di chilometri di distanza. Quindi ovviamente questi effetti non sono localizzati, queste esplosioni possono avere, come dire, effetti acuti, tipo uccidere un organismo che sta nei pressi, ma soprattutto possono avere altri effetti tipo comportamentali, che sono lo spostamento di grandi cetacei, lo spostamento di risorse ittiche importanti, e tutto questo di fatto è in gran parte un buco nero. Ci sono ovviamente le prime evidenze, però il problema di fondo è sempre quello: in un mare come il nostro, che è già sottoposto a numerosi fattori di pressione, noi ci possiamo rischiare di aggiungere anche un'attività pericolosa, non solo quando viene fatta, ma soprattutto per le sue conseguenze, perché bene che vada, noi non facciamo altro che tirare fuori ulteriori idrocarburi fossili, gas o petrolio, che aumenteranno il problema del riscaldamento climatico, e questa non mi pare una grande soddisfazione. In conclusione, diciamo, in generale, come si sta collocando l'azione di questo governo sulle tematiche ambientali? Il problema è che si procede un po' a singhiozzo e, come dire, sul fatto compiuto. Tutta questa sarabanda delle trivelle è dovuta al fatto che improvvisamente ci siamo accorti che erano state rilasciate 3 concessioni, no? E quindi si sarebbe potuto attendere un maggiore ascolto da parte di chi, soprattutto durante la fase della campagna elettorale, aveva mostrato maggiore attenzione a questi temi. Probabilmente come il nocciolo del problema sta nella eterogeneità della composizione. Riguardo alla questione del clima, per fare un esempio, mentre il Movimento 5 Stelle ha un documento piuttosto ampio e in gran parte condivisibile sul clima, sugli effetti del cambiamento climatico, su cosa bisogna fare a riguardo, la Lega è praticamente un partito negazionista del clima. Cioè, i membri della Lega a livello del Parlamento europeo hanno votato contro l'adozione del protocollo di Parigi. Quindi è difficile conciliare queste due anime, e quindi, insomma, questo tipo di scontro, di confronto risulta un po' cronico dentro questa maggioranza.